Alcune vecchie amiche di Swann si occupavano molto di Gilbert. Quando nell'aristocrazia si venne a sapere dell'ultima eredità che aveva avuta, si cominciò a sottolineare quanto fosse buona la sua educazione e che donna affascinante sarebbe diventata. Si diceva che una cugina di Madame de Guermont, la principessa di Nièvre, pensasse a lei per il proprio figlio. Madame de Guermont detestava Madame de Nièvre. Disse dappertutto che un matrimonio simile sarebbe stato uno scandalo. Madame de Nièvre, spaventata, assicurò di non averci mai pensato. Un giorno, dopo colazione, poiché faceva bel tempo e il signor di Guermont sarebbe uscito con lei, Madame de Guermont si stava sistemando il cappello davanti allo specchio. I suoi occhi azzurri si guardavano e guardavano i suoi capelli ancora biondi. La cameriera aveva in mano diversi ombrellini, fra cui la padrona doveva scegliere. Il sole entrava a fiotti dalla finestra e il duca e la duchessa avevano deciso di approfittare della bella giornata per andare a fare una visita a Saint-Cloud. Il signor di Guermont, belle pronto per uscire con i suoi guanti grigio perla e il cilindro in testa, si diceva: «Orient è davvero formidabile, la trovo ancora deliziosa». E vedendo che la moglie sembrava ben disposta, a proposito disse: «Devo farvi una commissione da parte di Madame de Virleve. Voleva invitarvi lunedì all'opera, ma siccome ci sarà la piccola Swan, non osava e mi ha chiesto di tastare il terreno. Io non emetto alcun parere, mi limito a trasmettere, eh? Oddio, a me sembra che si potrebbe», aggiunse evasivamente, sapendo per conto suo, già che il loro atteggiamento verso una persona era un atteggiamento collettivo e nasceva identico in ciascuno dei due, come la moglie, caduta ogni ostilità per Mademoiselle Swann, fosse curiosa di conoscerla. Madame de Guermont finì di sistemare la veletta e scelse un ombrellino. «Ma decidete voi, cosa volete che me ne importi? Non vedo nessun inconveniente a conoscerla, quella piccina. Sapete bene che non ho mai avuto niente contro di lei. Semplicemente non volevo che dessimo l'impressione di approvare i matrimoni sbagliati dei miei amici. Tutto qui». «E avevate perfettamente ragione», rispose il duca. «Siete la saggezza in persona, signora, e per di più siete incantevole con questo cappellino». «Siete gentile», disse Madame de Guermont, sorridendo al marito e dirigendosi verso la porta. Ma prima di salire in carrozza, volle dargli ancora qualche spiegazione. «Adesso ci sono molti che frequentano la madre. Lei del resto ha il buon gusto d'essere malata per tre quarti dell'anno. Sembra che la piccina sia molto graziosa. Tutti sanno che volevamo un gran bene a Swann. Si troverà la cosa del tutto naturale». E partirono insieme per Saint-Cloud. Un mese dopo, la piccola Swann, che non si chiamava ancora Forcheville, faceva colazione dai Guermont. Si parlò di mille cose. Alla fine della colazione, Gilbert disse timidamente: «Credo che voi conosceste molto bene mio padre». «Ah, lo credo», disse Madame de Guermont in un tono malinconico che rivelava come capisse il dolore della figlia e con un voluto eccesso di intensità apparentemente inteso a dissimulare che non era sicura di ricordare molto esattamente il padre. «L'abbiamo conosciuto molto bene. Me lo ricordo molto bene». E in effetti poteva ricordarselo. Era venuto a trovarla quasi ogni giorno per 25 anni. «So benissimo chi era, vi dirò», aggiunse come per spiegare alla figlia chi aveva avuto per padre e fornirle qualche informazione su di lui. «Era un grande amico di mia suocera. Ed era anche molto legato a mio cognato Palamed. Veniva anche qui, persino a colazione», aggiunse il signor di Guermont, per ostentazione di modestia e scrupolo d'esattezza. «Ricordate, Orient, Ah, che brav'uomo era vostro padre. Si sentiva che doveva essere una famiglia di gente onesta la sua. Del resto li ho anche visti tanto tempo fa, suo padre e sua madre. Che brava gente sia loro che lui. Si sentiva che se fossero stati genitori e figlio ancora in vita, il duca di Guermont non avrebbe avuto la minima esitazione a raccomandarli per un posto di giardinieri. Ed è sempre così che il Faubourg Saint-Germain parla a un borghese degli altri borghesi, un po' per lusingarlo dell'eccezione fatta, per quanto dura la conversazione, a favore dell'interlocutore o dell'interlocutrice, e piuttosto, o nello stesso tempo, per umiliarlo. Analogamente, un antisemita, nel momento stesso in cui copre di gentilezze un ebreo, gli parla male degli ebrei, in un modo generale, che gli consente d'essere offensivo senza essere grossolano. Ma regina dell'attimo, Madame de Guermont, che quando vi incontrava sapeva essere tanto gentile da confondervi e non si decideva più a lasciarvi andare via, ne era anche schiava. Qualche volta, nell'ebbrezza della conversazione, Swann aveva potuto darle l'illusione di provare per lui dell'amicizia. Adesso non poteva più. Era affascinante, disse la duchessa con un sorriso triste, posando su Gilbert uno sguardo dolcissimo, che ad ogni buon conto, per il caso che si trattasse d'una fanciulla sensibile, le avrebbe dato la certezza d'essere capita, e che Madame de Guermont, se mai si fosse trovata sola con lei e le circostanze l'avessero consentito, sarebbe stata lieta di svelarle gli abissi della sua sensibilità. Ma il signor di Guermont, sia che giudicasse le circostanze appunto poco favorevoli a siffatte effusioni, sia che considerasse ogni esagerazione sentimentale come una faccenda di donne in cui gli uomini non dovevano immischiarsi più che in qualsiasi altra attribuzione femminile, eccettuati la cucina e il vino, che si era riservati perché se ne intendeva più della duchessa, credette bene non alimentare, contribuendovi, quella conversazione che ascoltava con visibile insofferenza. D'altronde, Madame de Guermont, passato quell'accesso di sensibilità, aggiunse con frivolezza mondana, rivolgendosi a Gilbert, «Vi dirò, era amicissimo di mio cognato Charlot, ed era anche, pensate, molto vicino a Voisnon, il castello del principe di Guermont. Non solo come se il fatto di conoscere il signor di Charlot e il principe fosse stato per Swann un puro caso, come se con il cognato e il cugino della duchessa Swann avesse avuto rapporti in una circostanza determinata, mentre Swann aveva rapporti con tutte le persone di quell'ambiente, ma anche come se Madame de Guermont avesse voluto far capire a Gilbert chi era all'incirca suo padre, situarlo ai suoi occhi, ricorrendo a uno di quei tratti caratteristici con cui, volendo spiegare perché si hanno rapporti con qualcuno che non si dovrebbe conoscere, o per rendere più specifico il proprio racconto, si invoca il particolare patrocinio di una certa persona. Quanto a Gilbert, fu tanto più felice di veder cadere il discorso in quanto non chiedeva di meglio che cambiarlo, avendo ereditato da Swann un tatto squisito, che, unito al fascino intellettuale, fu riconosciuto e gustato dal duca e dalla duchessa, i quali chiesero a Gilbert di tornare presto a trovarli. Del resto, con la minuzia di chi nella vita non ha scopo, nelle persone con cui entravano in rapporto scorgevano di volta in volta le più semplici delle qualità di fronte alle quali davano in esclamazioni con la meraviglia ingenua di un cittadino che in campagna fa la scoperta d'un filo d'erba, o, al contrario, ingrandivano come al microscopio, commentavano senza fine, prendevano in uggia i minimi difetti. E tutto questo spesso nella medesima persona. Per Gilbert fu innanzitutto sui suoi pregi che si esercitò l'oziosa perspicacia dei due Guermont. «Ma avete notato come dice certe parole?» disse al marito la duchessa quando Gilbert se ne fu andata. «Era puro Swann. Mi sembrava di sentirlo. Stavo per fare la vostra stessa osservazione, Orion. È spiritosa. Ha lo stile del padre. Trovo che gli è persino superiore, e di parecchio. Ricordate come ha raccontato bene quella storia dei bagni di mare? Ha un brio che Swan non aveva. Eppure era così spiritoso. Ma non dico che non fosse spiritoso, dico che non aveva brio, replicò il signor di Guermont in tono lamentoso perché la gotta lo rendeva nervoso e quando non c'era nessun altro a cui testimoniare la propria irritazione la manifestava alla duchessa. Ma incapace di comprenderne le cause, preferiva assumere l'atteggiamento dell'incompreso. La buona disposizione del duca e della duchessa fece sì che adesso le si sarebbe potuto dire qualche «il vostro povero papà», formula che d'altronde non poté essere usata, perché proprio in quel periodo Forcheville adottò la fanciulla. Gilbert diceva «papà» a Forcheville. Affascinava le vecchie signore con la sua gentilezza e la sua distinzione, ed era opinione generale che se Forcheville si era comportato magnificamente con lei, la piccina aveva un'ottima stoffa e sapeva ricompensarlo. Certo, poiché di tanto in tanto poteva e desiderava mostrarsi molto disinvolta, da me si era fatta riconoscere e mi aveva parlato del suo vero padre. Ma era un'eccezione e davanti a lei non si osava più pronunciare il nome di Swan. Poco prima, entrando nel salotto, avevo giusto notato due disegni di Elstir che una volta erano relegati di sopra in uno studiolo dove solo per caso li avevo visti. Elstir adesso era di moda. Madame de Guermont non si dava pace d'aver regalato tanti suoi quadri alla cugina, non perché fossero di moda, ma perché adesso le piacevano. La moda, in effetti, è il risultato dell'infatuazione di un insieme di persone, di cui i Guermont sono rappresentativi. Ma la duchessa non poteva pensare di acquistare altri quadri di Elstir, perché da qualche tempo i loro prezzi erano follemente saliti alle stelle. Volendo avere almeno qualcosa di Elstir nel suo salotto, vi aveva fatto trasportare quei due disegni che dichiarava di preferire ai suoi quadri. Gilbert riconobbe la mano. «Si direbbero degli Elstir», disse. «Ma sì», rispose sbadatamente la duchessa, «è stato proprio vostro... sono stati dei nostri amici a farceli comprare. Sono stupendi, secondo me sono più belli dei suoi quadri». Io, che non avevo sentito questo dialogo, andai a osservare i disegni. «Ah, guarda, è l'Elstir che...» E vidi i cenni disperati di Madame de Guermont. «Ma sì, è l'Elstir che ammiravo di sopra. Sta molto meglio qui, che in quel corridoio. A proposito di Elstir, l'ho nominato ieri in un articolo sul Figaro. L'avete letto?» «Avete scritto un articolo sul Figaro?» esclamò il signor di Guermont con la stessa violenza con cui avrebbe esclamato «Ma è mia cugina!» «Eh sì, ieri». «Sul Figaro siete sicuro?» «Beh, ne sarei davvero stupito perché abbiamo tutti e due il nostro Figaro e se fosse sfuggito a uno di noi l'altro l'avrebbe visto. Non c'era niente, Orian, non è vero?» Il duca fece cercare il Figaro e si arrese solo all'evidenza. Come se fino a quel momento fosse stato più probabile che io non ricordassi su che giornale avevo scritto. «Ma come? Non capisco. Avete fatto un articolo sul Figaro?» mi chiese la duchessa, facendo uno sforzo per parlare di una cosa che non le interessava. «Via, Bazin, lo leggerete più tardi». «Ma no, il duca sta benissimo così, con la sua grande barba sul giornale», disse Gilbert. «Io lo leggerò non appena sarò a casa». «Già, porta la barba adesso che tutti si radono», disse la duchessa. «Non fa mai quello che fanno gli altri». Quando ci siamo sposati, si radeva non solo la barba, ma persino i baffi. I contadini che non lo conoscevano non riuscivano a credere che fosse francese. A quei tempi si chiamava Principe de l'Homme. «C'è ancora un Principe de l'Homme?» chiese Gilberte, che si interessava a qualsiasi cosa concernesse quelle persone che per tanto tempo le avevano negato il saluto. «Ma no», rispose la duchessa con uno sguardo malinconico e carezzevole. «Un così bel titolo, uno dei più bei titoli francesi», disse Gilberte, «giacché un certo tipo di banalità affiora inevitabilmente quando è il momento sulla bocca di certe persone intelligenti». «Eh sì, anche a me dispiace. Bazin vorrebbe che lo prendesse il figlio di sua sorella, ma non è la stessa cosa. In fondo si potrebbe, perché non deve essere per forza il primogenito. Può anche passare dal maggiore al minore». Vi stavo dicendo che Bazin allora era tutto rasato. «Un giorno, a un pellegrinaggio, ve lo ricordate, mio caro?» rivolgendosi al marito. «Quel pellegrinaggio a Paray-le-Monial, mio cognato Charlot, a cui non dispiace affatto parlare con i contadini, diceva questo a quello, tu di dove sei? E siccome è molto generoso, gli dava qualche cosa, li portava a bere, perché nessuno è più su e nello stesso tempo più semplice di me. Lo vedrete rifiutarsi di salutare una duchessa che non gli sembra abbastanza duchessa e colmare di gentilezze quello che tiene i cani. Allora, io dico a Bazin: andiamo, Bazin, parlategli un po' anche voi. E mio marito, che non è sempre molto inventivo...» «Grazie tante, Oriane», disse il duca senza interrompere la lettura del mio articolo in cui si era immerso. «Vide un contadino e gli ripeté testualmente la domanda di suo fratello: e tu di dove sei?» «Sono dei Lom». «Dei Lom? E allora sono il tuo principe». Ma il contadino guardò la faccia tutta glabra di Bazin e gli rispose: «Mica vero, voi siete un English, voi». Quei grandi titoli eminenti, come quello di principe de Lome, li si vedeva sorgere, così, in quei raccontini della duchessa, al loro vero posto, nel loro stato originario e con il loro colore locale, così come in certi libri d'ore si riconosce, in mezzo alla folla dell'epoca, l'aguglia di Bourges.